Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Ed eccoci ancora qui Maria Latella con voi dopo il caffè che abbiamo preso con Brunello Cucinelli. Avete sentito? Un elemento di ottimismo. Fa sempre bene la domenica mattina ripartire con un po' di positività. Io almeno la vedo così, non sono mai catastrofista. E la settimana scorsa, proprio nel senso di guardare anche alla vita professionale da un'angolazione diversa, abbiamo raccontato come per caso o per scelta talvolta una passione professionale, una passione, come dire, amatoriale può diventare un lavoro. Ne abbiamo parlato con i nostri ospiti, con Dario Ballantini, con altri, e ci sono arrivati tanti messaggi all'828 12 12, che vi ricordo è il numero della nostra casella vocale, alla quale potete lasciare suggerimenti, critiche, che quel che vi pare. 828 12 12. Stamattina però, questa domenica, vogliamo parlare di tasse, nel senso che, come sapete, il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza. Domani al Consiglio dei Ministri si discuterà il provvedimento, che sarà poi illustrato dal ministro Speranza martedì, e molti temono che questo autunno sia un autunno difficile per tanti lavori e per tante donne che, avendo una attività, un esercizio magari commerciale, un'attività di microimpresa, potrebbero tornare ad avere delle difficoltà, non avere clienti. Una proposta di cui si è parlato in questi giorni, una proposta che era stata avanzata anni fa da due economisti, Andrea Ichino e lo scomparso purtroppo Alesina, la proposta di tassare meno le donne che lavorano è tornata di attualità ed è tornata di attualità con l'intervento della professoressa Elsa Fornero. Allora, poiché se ne parla da molto, mi chiedo come mai noi giornalisti, i media in generale, non hanno fatto un approfondimento, ed è la domanda che rivolgo al condirettore di Famiglia Cristiana, Luciano Regolo, che è con noi questa domenica. Nessuna perfetta. Buona domenica, Luciano. Buona domenica a tutti. Ciao Maria. Sì, è un po' un argomento un po' diciamo interessante, anche perché ha due dati oggettivi, no, sui quali possiamo concentrarci. Uno è che è tornata sotto la soglia del 50% l'occupazione femminile, che già era una soglia raggiunta con difficoltà nel 2019, e poi abbiamo anche dei dati che ci dicono che comunque le donne continuano a prestare lavori domestici 20 ore settimanali in più circa rispetto all'uomo, mentre questo divario si assottiglia quando, diciamo, la donna ha una posizione manageriale, quindi quando le retribuzioni sono più o meno, diciamo, simili. Allora, il fatto di trovare una riduzione, diciamo, comunque un'agevolazione fiscale, sicuramente può creare una spinta all'occupazione per quanto riguarda non solo le donne ma anche il settore giovanile, eccetera. Io credo, riguardo alla domanda specifica, che noi giornalisti spesso ci lasciamo prendere, come dire, da questa frenesia un po' che hanno anche spesso i politici, di fare più slogan che non occuparsi, diciamo, di reali motori. Come ha detto Papa Francesco nell'ultima udienza generale, occorre anche un vaccino contro il virus socioeconomici, e quindi provvedimenti che in qualche modo sostengono anche, diciamo, la produttività e l'occupazione. Io tra l'altro penso che, appunto, una proposta di questo genere meriti un approfondimento. Lo faremo nel corso di Nessuna è perfetta, proprio con Elsa Fornero, ma la cosa che andrebbe approfondita è vero che si potrebbe creare un elemento, come dire, di preoccupazione sull'equità di una detassazione per le donne, perché c'è anche questo elemento da tenere presente, ma a fronte dei vantaggi che una detassazione produrrebbe, vale forse la pena di approfondire. E tu, Luciano, citavi giustamente Papa Francesco, che proprio nei giorni scorsi ha nominato un'italiana di grandissima autorevolezza, Fabiola Gianotti, direttrice del CERN a Ginevra, l'ha inserita in un prestigioso incarico. Sì, l'Accademia delle Scienze, diciamo, pontificia, e questa è anche, diciamo, un'attenzione che ha sempre avuto Papa Francesco anche per le donne della Chiesa, facendo diverse, diciamo, interventi al riguardo. Io credo che, tra l'altro, come hai detto giustamente, bisogna approfondire la situazione. È chiaro, non significa creare privilegi per nessuno, ma creare, diciamo, anche vedere nella tassazione uno strumento che rende più elastica. È vero comunque che le donne sono un soggetto, questo è innegabile, precario, che viene facilmente, spesso lavorativamente, hanno con tipi di contratti e altro, che vengono facilmente sacrificati in un sistema in cui le aziende comunque, diciamo, sono ingabbiate, diciamo, in altri tipi di contrattualità e comunque di disparità rispetto alla retribuzione maschile. Quindi questo bisogna tenerlo presente e cercare di studiare anche delle agevolazioni diversificate per categorie professionali. Questa è una cosa che potrebbe sicuramente ridurre gli eventuali presunti privilegi, insomma. Tra l'altro, appunto, in base agli ultimi dati Istat, l'effetto del Covid si avvertirà molto di più sulle donne, sui giovani, come sempre nel meridione. Il tasso di occupazione si trova oggi, per quanto riguarda le occupate, le donne, a meno 2,2 punti in confronto al meno 1,6 degli uomini. Insomma, è un tema del quale ha parlato anche il presidente di Confindustria Bonomi nel suo intervento nei giorni scorsi alla prima assemblea di Confindustria sotto la sua direzione. Luciano, l'ultima cosa che vorrei chiederti, parlavamo prima con Brunello Cucinelli di Milano, c'è stata la settimana della moda, si è appena conclusa, Brunello Cucinelli ha espresso un cauto ottimismo, tu che con il tuo giornale, con Famiglia Cristiana, appunto, sei insediato a Milano e sei sempre stato a Milano, un flash sulla città. È una città che, diciamo, reagisce, Milano ha questo un po' nel DNA di reagire di fronte alle difficoltà, ma anche una città dove c'è la preoccupazione, la si percepisce, diciamo, specialmente anche nei discorsi della gente, diciamo, specialmente negli esercizi pubblici. C'è questa specie di spada di Damocle di un nuovo lockdown che si percepisce. Per esempio anche i tassisti ne sono terrorizzati, ci sono varie categorie, diciamo, professionali che avvertono proprio questa morsa, quindi è opportuno, diciamo, in questo momento cercare di prevenire, no, questo tipo di ed è vero che ci sono dei settori che sono stati colpiti maggiormente, che sono appunto quelli del turismo, dove per l'Italia sappiamo che questo è un settore fondamentale, anche quello di servizi alle persone, esattamente. Quindi questo va tenuto in grande considerazione, forse in questa, diciamo, stagione richiederebbe anche una responsabilità, no, tra governo e opposizione, per concentrarsi su questo tipo, perché sono in gioco gli equilibri sottili di diverse famiglie. C'è anche, non dimentichiamoci, anche il problema scuola è molto avvertito a Milano, perché diverse, sì, diciamo, per fortuna questa mattina, Luciano, ho letto sulla stampa un'intervista alla ministra Azzolina che dice che appunto che le scuole non chiuderanno e ci auguriamo tutti che sia così, certo, con la inevitabile, diciamo, magari chiusura temporanea di una classe. Andiamo incontro a dei lockdown chirurgici e speriamo che bastino a evitare quello, diciamo, collettivo. Grazie al condirettore di Famiglia Cristiana, Luciano Regolo, che è stato con noi a Nessuno è Perfetto. Noi ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetta, buona domenica. Ma abbiamo qualcosa su cui riflettere pure questa domenica. Perché? Perché questa domenica vorrei parlare con voi di un'ipotesi che è sul tappeto da qualche anno, ma che adesso sembra aver ripreso forza. Qual è? quella di far pagare meno tasse alle donne che lavorano. La professoressa Elsa Fornero ne ha scritto sul quotidiano La Stampa qualche giorno fa, ma è una proposta che il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, proprio ospite del Caffè della Domenica della settimana scorsa, ha colto e ha fatto propria. La settimana scorsa abbiamo parlato di come si può cambiare vita professionale, carriera, far diventare lavoro una passione, di come appunto la vita certe volte ci costringe a cambiare. E anche a voi è successo, ce l'avete raccontato così. Buongiorno Maria, io sarò molto breve. Io lavoravo per una compagnia assicurativa a Milano, adesso invece gestisco un bellissimo agriturismo nei pressi di Perugia. E ti dirò che dopo le prime difficoltà iniziali, adesso sento di aver fatto la scelta giusta e sono davvero felice. Buona giornata. Ma conosco anch'io tante donne che hanno fatto una scelta di questo tipo, donne che lavoravano magari in una grande agenzia pubblicitaria e oggi conducono con soddisfazione degli agriturismi. Certo, non sono stati mesi facili perché con il Covid e il lockdown per mesi l'azienda non è stata aperta, ma poi quest'estate il ritorno c'è stato e quindi incoraggiamo anche questo tipo di cambiamento di vita senza averne particolare paura. Ma vi dicevo che noi oggi parliamo di tasse, nel senso che il lavoro spesso per le donne si rivela alla fine non conveniente, perché se due terzi dello stipendio che una prende poi finisce per essere utilizzato per una babysitter, per esempio, uno fa i conti e dice: allora mi conviene piuttosto restare a casa e occuparmi direttamente dei miei figli, con danni notevoli all'economia generale del paese, ma anche alla possibilità che poi quella stessa giovane mamma, una volta che i figli abbiano cominciato la scuola, trova difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Non abbiamo in Italia, non abbiamo ancora sviluppato come si dovrebbe quel tipo di programmi che invece in Germania favoriscono proprio il ritorno al mondo del lavoro delle mamme una volta che i figli siano cresciuti. Una idea non nuovissima, ma che torna di attualità, è quella, vi dicevo, di tassare meno le donne, perché se lo stipendio diventa un po' più robusto, beh, c'è un incentivo evidente, no, a non lasciare il lavoro magari dopo il primo o il secondo figlio. L'idea è tornata di grande attualità proprio, vi dicevo, per il combinato disposto di un articolo della professoressa Fornero e di quanto poi aveva detto al Caffè della Domenica il ministro Provenzano. Bene, oggi ospite di Nessuna è perfetta è proprio la professoressa Elsa Fornero. Bentornata, buona domenica alla professoressa Elsa Fornero, economista, già ministro del lavoro per il governo Monti e già ospite in varie occasioni di Nessuna è perfetta. Anche a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Professoressa, la settimana scorsa ho letto con interesse una proposta che lei ha lanciato dalle pagine della Stampa: meno tasse alle donne che lavorano. Ci spiega come funzionerebbe? Anzitutto la proposta non è mia, ma è di due economisti di fama, uno Alesina, scomparso da poco, certo, e l'altro Andrea Ichino. Certo. Loro hanno fatto questa proposta diversi anni fa, ma non se ne è mai veramente discusso. Io sono partita dalla considerazione che se si vuole parlare della rinascita del paese, uno dei temi veramente da affrontare è la disparità nei tassi di occupazione e, sia pure in misura inferiore, nelle retribuzioni di uomini e donne. nel nostro paese. Noi siamo quelli che hanno i più ampi divari, poi è chiaro che c'è una situazione diversa tra il nord e il sud del paese, ma insomma, ragionando come paese, questo è un divario che va colmato. Nell'ambito di questa direttiva, che non può non essere presa in considerazione, ma vedo che in tutte le cose che si leggono e dicono sulla riforma fiscale non si fa proprio cenno, vuol dire che proprio non entra. Riprendere questa proposta di Alesina e Ichino mi è sembrato assolutamente doveroso. Non perché io non sappia che sarebbe una proposta che insomma, la cui fattibilità ha dei problemi, a cominciare dalla Costituzione che insomma dice che tutti i cittadini sono uguali, però la stessa Costituzione nell'articolo 3 dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli. Allora, lei ricorderà che in Italia il Parlamento approvò una legge, la legge Golfo Mosca, è entrata oggi nella pratica, ha dato buoni risultati, è una norma tra l'altro che va a vantaggio di entrambi i sessi e quindi è una norma che favorisce l'uguaglianza, perché per esempio non si potrebbe fare un consiglio d'amministrazione solo di donne. Ebbene, allora mi è venuta l'idea che forse provare anche questo, cioè rendere il lavoro della donna più conveniente al netto della tassazione di quanto non sia oggi. L'idea è che le donne risponderebbero a questo aumento netto del salario più di quanto non rispondano gli uomini, che tanto già più o meno lavorano il tempo previsto dai contratti, perché è normale che un uomo lavori. Uno dei problemi è che molte donne in Italia lasciano il lavoro che è stato conquistato con fatica alla nascita del primo figlio e moltissime poi alla nascita del secondo. Perché? Perché quello che guadagnano non è sufficiente per tenere insieme il costo di una babysitter e i costi aggiuntivi del lavoro fuori casa. Ma in questo modo noi facciamo retrocedere al ruolo di uniche gestore della famiglia, donne che hanno impegnato anni per studiare e ci priviamo di talento, di persone che hanno studiato, ripeto, a spese della collettività. Mi ricordo che anni fa appunto di questo avevamo parlato sia con Alesina che con Ichino, ma secondo lei perché questa proposta, che è di evidente buonsenso, non passa? Perché in Italia ci sono, diciamolo apertamente, delle resistenze, faccio fatica a definirle culturali, vorrei dire resistenze da mancanza di una cultura dell'uguaglianza, del rispetto per le persone, della valorizzazione delle persone se donne. E in effetti tutto quello che vediamo sulla violenza nei confronti delle donne ci dà molto il senso di un atteggiamento quasi proprietario, le donne devono sempre essere di qualcuno, e questo è proprio la mancanza di un valore sociale all'indipendenza economica delle donne, non è diventato un valore condiviso nella società, e questo vuol dire mancanza di servizi, perché l'altro pilastro su cui io insisto è che ci devono essere i servizi. Si parla di ridisegnare il welfare, si deve cominciare dai servizi per la cura dei bambini, ma anche delle persone che hanno qualche problema di disabilità e che necessitano di cura, mentre qui la riserva mentale, in particolare dei politici, è sempre beh, ma tanto ci pensano le donne che così tornano in famiglia, come se una donna che lavora non fosse pienamente in grado di per sé di conciliare il lavoro e la famiglia. Come fanno da tempo nei paesi più vicini, penso alla Germania, che sta cercando di recuperare il gap delle donne che non lavorano, per esempio aiutando quelle che vogliono tornare al lavoro dopo aver dedicato alcuni anni alla cura dei figli piccoli, e le stanno aiutando con dei corsi appositi. Penso alla Francia, che citiamo sempre come un esempio di buon bilanciamento tra lavoro e famiglia. Ecco, un'ultima cosa: colpisce che nella società italiana queste riflessioni siano in realtà condivise. Mi pare che si sia ormai fatta strada l'idea che senza il contributo delle donne che lavorano questo paese arretra. Ne ho avuto conferma anche quando l'altro giorno nell'assemblea annuale di Confindustria il presidente Carlo Bonomi ha detto esattamente questo, che il paese ha bisogno del contributo di donne giovani che vanno sostanzialmente messi in grado di darlo questo contributo, ed è scattato il primo applauso. Allora, se la cosa è diventata di comune condivisione, che cosa si deve fare per farla arrivare finalmente nelle strade, nelle stanze in cui si decide? Che cosa manca? Sì, io penso che io sono meno ottimista sul fatto che ci sia nel profondo delle convinzioni questa consapevolezza. Non sono così convinta e ho sempre dubbi quando si attribuisce soltanto all'insensibilità dei politici la mancanza di un certo risultato. Penso che in realtà ci siano molte esigenze a tanti livelli, ma è proprio per questo che da parte delle donne non bisogna mollare, non bisogna più assecondare, non bisogna lasciar passare sotto silenzio cose che sono inaccettabili, a partire da quelle piccole. Io lo faccio da molti anni, ma ignoro semplicemente ogni invito nel quale sono richiesta di partecipare come pubblico, nel quale sono presenti solo relatori maschi. Queste cose danno l'idea di qualcuno che, quando deve decidere, si discute di questo tema importante, e chi sono quelli che ne discutono? Soltanto gli uomini. Nel mondo, e lei lo sa meglio di me, le donne hanno dimostrato di saper governare con una attenzione alle ragioni dell'economia e con una sensibilità alle ragioni sociali, dell'inclusione, della sostenibilità, molto superiore a quella dei loro colleghi maschi. Se oggi parliamo di governanti, guardarsi intorno è desolante, e l'unica consolazione viene dalle governanti donne. E questo è un tema che dovrebbe far rendere noi stesse determinate a pungolare in ogni luogo, in ogni ambito, quelli che tentano di ricacciarci in una situazione adatta forse ad altri tempi, ma oggi non più accettabile. Grazie a Elsa Fornero, che è stata ancora una volta ospite di Nessuna è Perfetta. Buona domenica, professoressa. A lei e a tutti, buona domenica. Torni a fare una valutazione con noi del fatto che la proposta da lei rilanciata ha fatto o non ha fatto strada. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta. Buona domenica all'avvocato Claudia Parzani, presidente di Allianz, partner di Linklaters, e per il quarto anno consecutivo segnalata tra i 100 leader a livello globale per l'inclusione di genere nella classifica che viene annualmente stilata da Yahoo Finance. Buona domenica a lei, buona domenica a tutti. Nei giorni scorsi Claudia Parzani ha pubblicato un articolo sulla prima pagina del Sole 24 Ore e il tema era il momento delle riforme. Sicuramente questo è il momento in cui le riforme vanno fatte, ora o mai più davvero. Ma prima di chiederle qual è quella che secondo lei è essenziale in questo momento, vorrei sentire la sua opinione sulla proposta, ne abbiamo parlato proprio poco fa con Elsa Fornero, di una fiscalità più vantaggiosa per le donne che lavorano, una proposta che tra l'altro è stata avanzata, lo dicevamo, anche dal ministro Provenzano, ospite del Caffè della Domenica la settimana scorsa. Lei pensa che possa essere un vero incentivo al ritorno al lavoro delle donne o al fatto che non lo lascino quelle che ce l'hanno il lavoro? La risposta è sicuramente sì. Il tema della fiscalità non è nuovo, è un tema che è stato trattato anche in passato, agli anni forse di Valore D, io direi 2014-2015, abbiamo provato a portare avanti questa istanza. È sicuramente uno dei modi più efficaci, più immediati per aggiungere un volano al tema dell'occupazione femminile. Quindi ben venga una fiscalità agevolata. La fiscalità agevolata, se mi posso permettere, non è solo una modalità per aiutare l'impresa ad assumere donne, è anche la modalità per cambiare all'interno della famiglia la valutazione di chi deve lavorare, perché ci si può sedere, magari si può pensare che anche avendo una fiscalità agevolata lato donna possa essere più conveniente magari che in una certa fase della carriera sia la donna a investire di più nella vita professionale. Ecco, nell'articolo che citavo prima, quello pubblicato dal Sole 24 Ore, lei fa riferimento ai giovani che non studiano né cercano lavoro. Fenomeno preoccupante, molto italiano. Anche qui una riforma servirebbe. Devo dire che tra i tanti temi forse questo è il più complicato, no? Perché è un tema motivazionale importante. Abbiamo questa categoria chiamata NET, che ha una percentuale credo la più alta d'Europa, di giovani che hanno appunto rinunciato a studiare e che non cercano lavoro, o meglio, hanno provato a inserirsi nel mondo del lavoro, ma non essendo particolarmente qualificati non hanno trovato uno spazio idoneo o comunque motivante e quindi restano a casa. Ecco, questa secondo me è un'altra delle sacche della nostra società a cui bisogna guardare con grande attenzione e che merita sicuramente un correttivo, un palliativo che può essere appunto anche in questo caso legato per esempio alla fiscalità o legato a modalità di incentivazione che siano legate al mondo dell'education invece, no? Come si riqualificano queste persone, come si aiutano. Abbiamo bisogno sicuramente di categorie professionali dove anche quest'estate si è visto che abbiamo degli spazi di occupazione, no? Mi viene in mente tutto il mondo dell'agricoltura, quest'anno tutti quelli che potevano essere considerati, leggevo, manovalanza che veniva da paesi come la Polonia, non ha raggiunto l'Italia per lavori stagionali in virtù appunto delle costrizioni legate al virus. Perché? Perché non ci sono gli italiani? Perché è vero che per decenni abbiamo trattato il lavoro come fosse una cosa poco glamour. Lavoro era cercarsi un posto in TV, lavoro era fare tanti soldi in finanza, lavoro era fare cose che comportassero poca fatica e molto come dire, rendimento pubblico. Non era glamour fare l'agricoltore o fare l'insegnante. Forse è un po' colpa anche nostra, anche dei media. Ecco, tra l'altro, avvocato del mondo della finanza, mi viene naturale chiederle che previsioni fa per Milano, che è la nostra città della finanza, e per l'economia italiana in genere. Allora, se posso, prima di darle questa risposta ferale, vorrei fare una battuta sul tema dell'agricoltura e di quello che possiamo usare con la nostra creatività. Sicuramente se c'è una cosa che abbiamo imparato è a tenerci bene e a volerci bene e quanto vale la vita, sempre legato al tema appunto del lockdown, e pensare di avviare una piccola attività nel tema appunto per esempio agricolo e del bio, trovo che non sia solo dignitoso come tipo di lavoro, ma trovo che possa essere anche particolarmente interessante. Volto pagina, torno alla domanda e La mia risposta è: Milano, come tutte le grandi città, si trova ad affrontare, secondo me, la crisi più forte, no? Cioè, abbiamo una City a Londra che rimarrà un anno completamente vuota, abbiamo un centro di Milano che si è ripopolato parzialmente, ci sono ancora tante realtà che lavorano completamente da casa, alcune che hanno scelto modalità al 25% o comunque al massimo al 50%, pochissimi sono rientrati tutti, e questo ovviamente sta segnando la città. La città ovviamente andava a un passo veloce, aveva una capacità di attrarre, per strada si sentivano solo voci di stranieri, questa parte ovviamente manca. Quindi la città sta, secondo me, riprendendo, di una ripresa lenta, di una ripresa locale. Quello che credo che serva è che ognuno guardi la città con rispetto, con voglia di contribuire, con l'idea che qua è dove viviamo, il posto deve essere al meglio di quello che possiamo, no? Piccole cose, se mi posso permettere, so, io sto andando a mangiare un giorno sì, un giorno no, nello stesso ristorante. Perché? Non perché cambino particolarmente il menù, ma perché penso che, siccome attorno allo studio hanno già chiuso parecchi ristoranti, mi concentro e cerco di aiutarne uno di quelli che stanno facendo fatica ma hanno avuto coraggio. Grazie a Claudia Parzani, l'aspettiamo di nuovo a Nessuno è Perfetta per parlare di novità, se ce ne saranno, e speriamo che siano positive per la tassazione delle donne che lavorano. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi come sempre torniamo domenica prossima con il caffè della domenica e avremo un ospite politico, perché non ci sarà più il problema dei ballottaggi. Subito dopo, come sempre, ci sarà Nessuno è Perfetta. Ringrazio in regia Alessandro Chiappini e in assistenza Gaia Romani. Grazie a tutti, buona domenica. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.